Allora, siamo con, come promesso, con Andrea Daniele Signorelli, che la prima cosa che mi verrebbe da dire è un giornalista che detto così sembra banale perché dice ci sono tanti giornalisti che parlano di innovazione, che parlano di transizione digitale. Secondo me nessuna delle due categorie è molto diciamo, ben rappresentata in questo momento, né quella dei giornalisti, cioè In per generale. potersi definire giornalisti bisogna fare cose un po' diverse da quelle che normalmente vediamo, e poi anche per potersi definire osservatori attenti della transizione digitale. Andrea riesce a essere entrambe le cose, è riuscito a trovare, soprattutto ne parlavamo anche a pranzo, un modello per cui effettivamente non si trova praticamente mai in condizione di non poter dire esattamente quello che pensa, non poter scrivere quello che pensa. E questo in tutte le sue declinazioni. Lui ha un bellissimo podcast, modera eventi, dibattiti, partecipa a festival, conferenze, scrive libri. E vi consiglio di andarli a vedere i libri che ha fatto. Scrive soprattutto anche su, cioè improvvisamente, magari aprendo uno di quei giornali che spesso sono anche portatori delle narrazioni illuminanti, improvvisamente c'è uno squarcio di verità, uno squarcio di illuminazione, e puntualmente vedete in fondo che l'ha scritto questo articolo, l'ha scritto Andrea. E non per questo, insomma, esattamente per questo motivo, io ho pensato che fosse necessaria una sua testimonianza su uno dei temi più abusati, che è quello del rapporto tra contenuti e intelligenza artificiale, e poi su un tema che ci sta particolarmente a cuore, che è quello della fragilità della memoria digitale, su cui già abbiamo fatto qualche ragionamento, ma non strutturato come quello che potrai fare tu. Quindi ti lascio volentieri la parola. Allora, sì, questo se vuoi lo Sì, lo tengo puoi più appoggiare. vicino. Ok, perfetto. Sì, allora, parliamo di internet, del rapporto tra internet e memoria, del rapporto tra internet e la nostra di memoria, come vedremo più avanti, per poi andare un attimo a toccare anche i temi dell'intelligenza artificiale e spostarci anche gradualmente un po' così anche verso temi fantascientifici. Come dicevo prima, Antonio, c'è un filo rosso che unisce tutto il discorso che andremo a fare, che come vedrete è abbastanza vario, andremo a toccare cose anche molto diverse, lontane tra di loro, e il filo rosso appunto è proprio questo, la nostra memoria ai tempi del digitale e come il digitale tratta la memoria nel senso più ampio del termine. È la prima volta che ne parlo seguendo questo percorso, quindi come dicevo prima Antonio, io non ho idea di quanto durerà questo momento in cui devo parlare, se per caso finisco dopo mezz'ora invece che dopo un'ora e mezza, vorrà dire che apriremo il dibattito. La prima cosa che mi interessa trattare è quella proprio del fatto di internet visto come l'archivio perfetto per la nostra cultura e il nostro sapere. Scusate, mi alzo perché in piedi faccio veramente troppa fatica, mi sento troppo un professore, non mi trovo. Allora, cosa succede? Succede che quando noi abbiamo iniziato a transitare, a spostare i nostri saperi, la nostra cultura, i nostri contenuti, la nostra produzione dal mondo fisico al mondo digitale, considerate che, come già sicuramente sapete, il web inizia a diventare un prodotto di massa attorno alla metà degli anni 90, prima era veramente una cosa solo per early user come Antonio Pavolini, e poi dopo inizia a diventare un prodotto più di massa a partire dalla metà degli anni 90. In quel momento si inizia a intuire la potenzialità incredibile del mondo digitale, ovvero qualcosa che finalmente ci permette non solo di archiviare tutto il nostro sapere in uno spazio fisicamente ridottissimo rispetto a quello che era richiesto precedentemente, ma che permette a tutto questo sapere di essere, uno, raggiungibile immediatamente, indipendentemente dal luogo in cui vi troviate in tutto il mondo, se siete raggiunti ovviamente da una connessione internet, e anche di poter moltiplicare, di poter riprodurre, questa è la caratteristica base del digitale, di poter riprodurre qualunque contenuto in n copie assolutamente indistinguibili dall'originale. Per tutte queste ragioni, quello che tutti pensavamo fino a non molto tempo fa, prima che venissero a galla le cose di cui parleremo adesso, eravamo fondamentalmente convinti di aver trovato lo strumento perfetto, lo strumento migliore per conservare e rendere accessibile il nostro sapere e la nostra produzione culturale, ma di intrattenimento, non per forza culturale. E poi gradualmente iniziamo a capire che ci eravamo sbagliati molto. Per esempio, quello che vedete è una serie giornalistica, un'inchiesta in 34 episodi, The Crossing, sulla ricerca che questo giornalista fa per ritrovare 34 ragazzini, perché gli episodi erano il numero dei ragazzi persi, che erano finiti in un incidente nel 1961, in un incidente ferroviario. Questa inchiesta giornalistica pubblicata dalla Rocky Mountain News, una testata del Colorado, arriva finalista al premio Pulitzer. Però il 2007 siamo ancora, insomma, in quegli anni in cui il giornalismo inizia ad essere un po' in difficoltà. E quindi cosa succede? Che nel 2009, solo 2 anni dopo la pubblicazione di questa inchiesta e il suo approdo tra i finalisti del Pulitzer, che ovviamente è il premio più importante al mondo per le inchieste giornalistiche, il Rocky Mountain News, come una tantissima, una quantità veramente infinita, che tuttora oggi continuano a chiudere, le testate locali stanno chiudendo. Quindi scompare il sito, non era mai stata pubblicata su cartaceo, era soltanto online, perché era una di quelle cose che all'epoca si chiamavano multimediali, c'erano video, c'erano audio, c'erano grafiche, quindi era pubblicata soltanto online. Chiude il sito di questo storico quotidiano del Colorado e l'intero reportage, che era stato finalista al Pulitzer, scompare completamente nel nulla, per forza, era solo online, era solo su internet. Non c'era una biblioteca che ne conservasse una copia, non c'era un archivio che ne custodiva i file, non c'erano banalmente i lettori che avevano copie dei loro giornali. Neanche The Wayback Machine, no? Non era rimasto neanche su Wayback Machine. Non so se perché magari nel 2009 funzionava in maniera meno capillare di oggi, forse perché può succedere che se lo sia perso, però non c'era, scomparso nel nulla. L'autore, per recuperare tutto, è dovuto andare nella sede ormai abbandonata, non ancora del tutto abbandonata, del Rocky Mountain News, e assieme ai tecnici entrare negli hard disk, recuperare i file, e così, con un lavoro che però è durato anni, quando lui lo racconta nello stesso sito in cui poi ha ripubblicato tutto, il lavoro è durato anni ed è riuscito, facendo un suo sito che si chiama The Crossing Story, a recuperare tutto il reportage. Questa è stata un po' una delle prime spie, una delle più visibili, visto che comunque si trattava di un'inchiesta giornalistica molto importante, che ci ha fatto intuire come stesse un po' deragliando, stesse un po' venendo meno questo concetto che noi avevamo del digitale come di qualcosa che avrebbe garantito un accesso costante e ubiquo a qualunque contenuto. E poi ovviamente, certo, The Crossing è stato recuperato, ma The Crossing ha avuto un trattamento privilegiato. Nello stesso lasso di tempo hanno chiuso centinaia di milioni di siti, hanno chiuso una marea di blog, piattaforme che un tempo erano fondamentali per la nostra vita quotidiana, sono andate del tutto perdute, e con esse tutti i contenuti lì racchiusi. Un esempio solo è MySpace, qualcuno si ricorda, sa che cos'è MySpace, vedo, ok, un po' annuire, bene, benvenuti nella preistoria del mio digitale web 2.0, ma su MySpace sono andate perdute centinaia di milioni di canzoni fatte anche da artisti di un certo rilievo, perché se oggi noi sappiamo, non so, che Billie Eilish è nata da SoundCloud, o altri artisti oggi nascono da TikTok, beh, ai miei tempi gli artisti giovanissimi nascevano su MySpace, tipo un gruppo noto sono gli Arctic Monkeys, ma ce ne sono parecchi altri. Centinaia di milioni di canzoni, anche di gruppi poi diventati famosi, in cui i primi pezzi, che voglio dire hanno un valore culturale, scompaiono nel nulla, non ci sono registrazioni, se non vai a sapere nella cameretta di qualcuno dei protagonisti di quei pezzi. Altro archivio socioculturale che, potendo recuperarne un pochino tramite la Wayback Machine, l'Internet Archive, di cui poi parleremo, Yahoo Answer. Yahoo Answer era chiuso ormai da qualche anno, era, non lo so, uno spaccato socioculturale incredibile, perché era veramente dove soprattutto ragazzi e ragazze giovani si confrontavano sui temi più pressanti della loro giovinezza. Che riprende un po' quello che erano le rubriche, le lettere ai lettori di Cioè. Le lettere ai lettori di Cioè o di Teen Girl, che andava forte tra le mie compagne di classe quando andavo al liceo. C'era anche il blog di MSN Messenger. C'era anche quel che era sempre lo stesso stile, dici? Sì, ok. Un sacco di grandi influencer di adesso che hanno 30-35 anni, ma anche giornalisti, hanno iniziato da Firenze su quei blog là. Ah beh sì, quello però era proprio un blog dove si iniziava magari a scrivere, sì, questo era più un blog dove si scriveva, potevi caricare i primi video brevissimi, okay. Le immagini, questo era più un forum in cui le persone si scambiavano opinioni, tipo qual è il tuo gruppo preferito, cosa ne pensi di Amici di Maria De Filippi, come se fosse, era un vero e proprio forum, però aveva la particolarità di essere veramente uno spaccato su degli anni molto precisi della nostra cultura, era anche trash, perché si parla parlava veramente anche in maniera sciocca, come si faceva nella rubrica delle lettere di Cioè. Però era interessante perché raccontava quali erano gli stili di quel periodo a livello soprattutto anche di look o di interessi, ma anche a livello di scrittura, perché sappiamo che negli ultimi 20 anni il modo in cui scriviamo è passato dalle K degli SMS all'odio delle K, poi sono entrate le emoticon, poi diventate emoji, e poi le GIF, è cambiato tantissimo, e uno strumento come Yahoo Answer era anche un ottimo modo per tenere traccia di tutti questi cambiamenti. Basta, sparito nel nulla, e con esso si è perso uno spaccato comunque dal punto di vista socioculturale molto interessante, perché a un certo punto Yahoo Answer chiude. Ma oggi sappiamo che comunque il fenomeno è purtroppo molto generale. Questo è uno studio che è stato fatto recentemente che si basa sui link contenuti in alcune testate accademiche, perché sono quelle più facilmente studiabili e rintracciabili. HRV sta per Harvard, adesso non, no, HLR sta per Harvard Law Review, insomma testate accademiche di questo tipo. Che cosa ci dice questo grafico? Che all'interno dei link contenuti su queste testate, sulla prima ne rimane in vita il 59,9%, sul secondo il 65,2%, sul terzo il 66,8%. Tutti gli altri con delle risposte diverse, tra cui ovviamente la più comune è la celeberrima 404 file non trovato, significa che quei link sono andati perduti, cioè che quei contenuti che venivano rinviati dalle varie testate accademiche qua citate oggi non sono più rintracciabili. Siamo su una media che va da un minimo del 33 a un massimo di oltre il 40%. Significa che fondamentalmente tutti questi 40% dei link che erano contenuti in queste riviste oggi sono rotti e non più rintracciabili. Questa è una cosa che troviamo un po' ovunque, ed è l'aspetto interessante è che non è necessario che chiuda un sito, come abbiamo visto prima per il Rocky Mountain News, per smarrirne i contenuti. Basta che cambi un indirizzo, basta che il sito venga un po' riorganizzato, come abbiamo visto anche più volte in prima persona quando ci siamo trovati a dover sbrigare questo tipo di lavori, che sia stata modificata la URL per qualche ragione. Insomma, tantissime possono essere le ragioni per cui poi, affinché poi quel link diventi, come si dice in gergo, rotto e sia irrintracciabile. Questo però per certi versi non è un difetto, non è un problema del web, del World Wide Web e di Internet, è un po' la sua caratteristica fondante che fa sì che tutto ciò possa avvenire. Non c'è una realtà proprietaria di Internet, non c'è una proprietà... Non è mai stata formalizzata una responsabilità di chi pubblica in rete a rendere recuperabile tutto quello che uno scrive nel tempo. Cioè, fin dagli inizi siamo partiti con questo sogno di pagine paritarie che si linkano tra di loro, e quindi evidentemente è una responsabilità collettiva a garantire il buon fine di questi collegamenti, ma la verità è che nessuno è mai stato responsabilizzato, mi verrebbe da dire, per negligenza. Nel tempo è diventato invece non solo negligenza ma anche esigenza delle piattaforme che vivono un eterno presente, e soprattutto di un'editoria che in generale fa soldi con l'eterno presente e non è mai riuscita a monetizzare gli archivi. Sì, esatto, è proprio questo, cioè non c'è responsabilità da parte, cioè ogni utente è responsabile per sé, ma non è responsabilizzato a portare avanti, non c'è ovviamente, e per fortuna, un proprietario del web che si prende cura di tutto ciò. Questa cosa, la caratteristica decentralizzata di Internet, ha tantissimi aspetti positivi, uno però dei problemi è che stiamo veramente perdendo pezzi della rete senza poterci fare quasi nulla, come vedremo. Un'altra analisi più recente ha mostrato come il 25% di tutti i link contenuti negli articoli del New York Times sia rotto. Sono il 6% dei link successivi al 2018, il 72% dei link successivi al 1998, la stragrande maggioranza. Tra questi link ci sono anche documenti della Corte Suprema statunitense, tantissima roba che oggi non è più ritrovabile, ma è talmente tanta che ha dato vita curiosamente a un'economia sotterranea. Oggi ci sono piccoli imprenditori del sottobosco digitale che vanno a cliccare su tutti i link che trovano. Quando trovano un link magari contenuto appunto sul mio New York Times o pensate su Corriere.it o Repubblica.it, decide di andare di comprarsi quel dominio non più funzionante, riempirlo di pubblicità, perché sa che comunque per un bel po' di tempo la gente continuerà a cliccare sul link, e quindi lui è un dominio che si compra per 2 lire perché nessuno è più interessato, lo riempie di pubblicità, e così quello che è un link rotto diventa un link pubblicitario. Si creano anche queste piccole economie sotterranee. Il rischio di perdere contenuti di valore continua ad aumentare col passare degli anni, è inevitabile, perché mano a mano che noi portiamo a termine questa benedetta o maledetta transizione digitale, noi stiamo affidando sempre di più al mondo, tra virgolette, dell'incorporeo e sempre meno al mondo del fisico. Per cui che cosa succede? Succede che oggi, per esempio, voi perdete tutti i contenuti che avete acquistato se siete, per esempio, abbonati a un quotidiano online. Siete abbonati a un quotidiano online, nel momento in cui chiudete quell'abbonamento, voi perdete l'accesso a tutto. A tutto quello che fino a ieri potevate visitare gratuitamente nella sua interezza. Un tempo non era così, era completamente diverso. Se io ero abbonato a un quotidiano, una volta che decidevo di disdire l'abbonamento, tutti i numeri di quella rivista che mi erano arrivati fino a quel momento mi rimanevano in casa e rimanevano per me accessibili, e quindi anch'io ero in parte custode della memoria di quella rivista. Cioè, se io fossi stato, non so, la Domenica del Corriere, storica testata di un secolo fa, ancora oggi è rintracciabile nelle bancarelle, perché sono le persone che la ricevevano in casa che se ne fanno in parte, sono in parte responsabili della loro conservazione, della loro rimessa in circolo. Questo non può più accadere. Oppure quelle famose modifiche, adesso non è importante vedere se siamo d'accordo, contrari o favorevoli, ma capita, lo sapete benissimo, che su Netflix o su Spotify i padroni delle piattaforme intervengano per togliere una canzone non più ritenuta opportuna. È successo recentemente con Patti Smith, su Netflix per togliere alcune puntate di una serie TV non più ritenute opportune, è successo con The Office e tante altre, e queste scompaiono. Fatti salvi alcuni angoli del mondo digitale, spesso legati all'ambito della pirateria, queste puntate rischiano nella realtà di scomparire. Potremmo dire che oggi la censura può fare danni molto più gravi. Molto più gravi. Ai tempi del mio omonimo, no, che toglieva intere pubblicazioni dal mercato, il ministro della cultura popolare, ai tempi c'erano due modi per evitare che i contenuti circolassero: la mancata autorizzazione e la censura, no? Che sono due meccanismi citati anche all'articolo 21, la stampa non è oggetto di autorizzazione di censura. Perché? Perché venivano da questo periodo pavoliniano, diciamo. E quindi che succede? Ai tempi chi aveva gli archivi dell'unità a casa comunque continuava ad averci. Invece oggi, se a qualcuno saltasse in mente di togliere un media outlet, per esempio, immaginiamo in queste autocrazie, in queste democrature, vogliamo chiamarle in tanti modi, che stanno dilagando in tutto anche il mondo che pensavamo più civilizzato, ecco lì, se tu togli dal mercato un media outlet, lo togli automaticamente, lo togli la disponibilità della fruizione. Sì, lo cancelli, lì, cancelli completamente, qualcosa che un tempo non sarebbe potuto succedere, nessuno poteva realisticamente parlando, tranne casi eccezionali, entrarvi in casa e portarvi via il CD, per fare un esempio che non c'entra tanto con la censura politica, ma portarvi via il CD di Patti Smith e dice no, questo non è più opportuno, cioè una canzone di Patti Smith è incriminata. Come si risolve questo problema? Ovviamente ci sono dei progetti per cercare più che di risolverlo, di mitigarlo. Il primo, il più famoso di tutto, è l'Internet Archive. Esiste fondamentalmente con una lungimiranza ammirevolissima. L'Internet Archive esiste ormai quasi da 30 anni, sono 30 anni che questa società senza fini di lucro, sostenuta solo tramite donazioni e bandi, fa circolare questo crawler per tutta la rete che cattura fotografie istantanee di tutto quello che incontra nel suo continuo peregrinare per il web e poi le archivia. Per cui è interessante, cioè Internet Archive, poi lo strumento è la Wayback Machine, che permette, per esempio, vi permette ancora oggi di vedere com'era Google nel 98. Anche questo è un aspetto interessante al quale noi ai tempi non avevamo pensato. Un domani, nel 2024, sarà interessante vedere com'era Google nel 98 e com'era nel 2002, perché ti permette di ripercorrere l'evoluzione grafica, di interfaccia, di funzionalità, di strumenti che sono essenziali per la nostra quotidianità e che quindi ormai a distanza di quasi di oltre un quarto di secolo dalla loro nascita, iniziano anche a diventare ovviamente degli oggetti di studio storico, ma nessuno aveva mai pensato alla necessità di salvarli. È buffo perché tutto questo sforzo meritorio dei volontari di Booster Cale e di Internet Archive, oggi invece nel discorso dominante viene derubricato a scraping, cioè viene derubricato ad un'attività illegittima, cioè è come se, come quando voi fate gli screenshot, no? Di una pagina, state riproducendo qualcosa la cui riproduzione magari è riservata. Stesso discorso, sì, c'è molto, diciamo, discorso deprecatorio nei confronti, per esempio, degli algoritmi di intelligenza artificiale, perché uno dovrebbe dire: vabbè, ma tu tutta questa conoscenza la prendi da che cosa? La prendi facendo scraping dalle pagine web che sono pubblicate nel tempo. Cioè, vedete che tutto questo si vede solo dall'angolo del contenuto di mia proprietà, e quindi tu non puoi andare a prenderlo, a copiarlo, a renderlo nuovamente disponibile. Beh, c'è un'altra faccia, c'è un'altra angolazione, se puoi vedere lo stesso fenomeno, e dire: se noi non lo facessimo, nessuno sarebbe mai in grado di capire in che mondo mediatico, visuale, eccetera, vivevamo anche solo 10-20 anni fa. Cioè, ovviamente devo ragionare in questi tempi, perché internet è 20 anni, la internet commercialmente... Sì, 30. Sì, 95 inizia a diffondersi, per cui ormai sono 30 anni. No, ma da questo punto di vista anche la pirateria è un tema al quale io tengo molto. In alcuni casi, ovviamente, non in tutti, ha avuto un ruolo molto importante dal punto di vista della preservazione e diffusione della cultura. In Italia c'è stato questo esempio, magari qualcuno di voi ha fatto in tempo a incappare in questo sito che si chiamava TNT Village Scambio Etico. Fondamentalmente era una sorta di biblioteca, però digitale, che funzionava tramite quella meravigliosa tecnologia che è BitTorrent. Quello che faceva era catalogare, archiviare, commentare, spiegare, riassumere, organizzare tutto il sapere principalmente del cinema, ma anche delle serie TV e dei cartoni animati, con una forte attenzione al cinema italiano. Ovviamente è qualcosa che le grandi piattaforme commerciali non hanno interesse a fare. Sì, su Netflix magari ogni tanto, non lo so, 8,5 compare, ma non è che abbiamo costantemente sotto mano i grandi capolavori del cinema di una volta. E le biblioteche, certo, esistono ancora, loro ce le hanno, però sarebbe anche veramente assurdo per certi versi aspettarsi che un ragazzino, una ragazzina nato con lo smartphone in mano, non gli viene manco in mente, secondo me, di recarsi in una biblioteca per fare qualcosa, guardare il film lì in quelle postazioni tristissime, o prendersi il DVD da portare a casa e poi non ha più neanche un luogo dove inserirlo. Questo DVD non ce l'ho manco anch'io, figuriamoci quelli che hanno 20 o 25 anni in meno di me. Però ovviamente quando si parla di questi discorsi viene sempre meno l'aspetto della diffusione della cultura, che è tutto sempre concentrato sull'aspetto commerciale, sui supposti e presunti danni commerciali che porta la pirateria. Non si valuta mai invece come renda l'accesso fruibile a tutti, anche a chi magari non ha la possibilità di essere iscritto a Netflix, a Disney Plus, ad Amazon Prime e a tutte le altre piattaforme, e come abbia avuto anche nel corso della storia, nel caso di questo TNT Village, anche un ruolo importante di archiviazione, catalogazione e conservazione del nostro patrimonio culturale in formato digitale. Quindi da una parte un patrimonio fragile, dall'altra parte un patrimonio che non stiamo aiutando a poter essere facilmente conservato. Ma stavamo parlando delle soluzioni. Un'altra possibile soluzione, questa ce la vediamo dopo, si chiama PERMA. Qua vado rapido perché è una parte abbastanza così noiosa. Si chiama PERMA, altro progetto di archiviazione, è un progetto digitale gestito da oltre 150 biblioteche, che salva su richiesta degli autori dei contenuti che hanno provato valore. Vuol dire che voi avete scritto un articolo che vi piace, o avete fatto un paper accademico che pensate sia importante, sentite gli organizzatori di PERMA e gli dite: questo per favore salvatemelo. Loro fanno una loro valutazione e poi all'interno dei loro server decidono che cosa conservare o meno. E poi gestione di progetti decentralizzati, perché giustamente si cerca di aggiungere, giustamente lo dico senza ironia, si cerca di aggiungere decentralizzazione a decentralizzazione. Questo cosa, come funziona? Questo si chiama IPFS, Interplanetary File System, sistema di file interplanetario, vabbè, ci sono questi nomi simpatici. È un protocollo decentralizzato, molto semplice, in realtà il funzionamento permette di salvare una copia delle pagine presenti sul web distribuendo il loro contenuto in computer collegati, cioè voi volete, siete per qualche motivo strano interessati a contribuire alla conservazione del web. Vi scaricate il loro software, collegate il vostro computer, a seconda di quanta memoria libera del vostro computer mettete a disposizione, loro vi spartiscono, vi distribuiscono, vi responsabilizzano a conservare una parte delle copie del web che loro stanno creando. Ovviamente siamo negli ambienti molto vicini alla blockchain e infatti ci sono anche progetti simili a IPFS che incentivano gli utenti a svolgere questo lavoro tramite criptovalute. Se tu metti a disposizione una parte della tua memoria, noi ti ricompensiamo con una tot quantità di token di criptovalute che poi potranno andare sul mercato, e se il progetto avrà successo il valore di queste criptovalute si alzerà. Vabbè, qua siamo ovviamente nel mondo più speculativo, ma l'idea è questa, cioè rendere tutti noi, un po' anche per le ragioni che diceva prima Antonio, responsabili della cura e della conservazione di un pezzetto di web. Qua vedo, sì, ho provato a scrivere una cosa assurda, perché è una riflessione che mi veniva pensando a quando le major, quando diciamo i broadcaster, quando i proprietari dei, diciamo, delle macchine distributive dei contenuti si alleano per una grande iniziativa contro la pirateria, loro a parole sostengono un principio che sarebbe anche, lasciatemi dire, condivisibile, no? la difesa della proprietà intellettuale. Però poi puntualmente la guerra viene fatta solo, di fatto, nei confronti dei contenuti che hanno mercato. Sì. Perché internet contiene al suo interno un'enorme quantità di contenuti, la stragrande maggioranza, che o non hanno un mercato o hanno un mercato così marginale da non cambiare le regole del gioco. Quindi poi alla fine, dietro la foglia di fico del principio della difesa della libertà intellettuale, si rivela nei fatti la necessità di difendere un mercato attraverso l'unico modello economico che è ancora però quello dell'editore, cioè quello che dice: o sali sulla mia piattaforma o tu non guadagnerai, cioè sono io che dico le regole al creatore, al creativo. E poi però c'è invece la grande ipocrisia di chiamare tutto questo dalla parte di chi crea, no, semmai dalla parte di chi gestisce la piattaforma distributiva. Esatto, sì. Quindi insomma, in generale, come si diceva, pensavamo che il mondo digitale fosse lo strumento perfetto per la conservazione, le copie limitate, l'accessibilità, tutto quello che avevamo detto. In verità la nostra capacità di conservare il sapere e la cultura sta diventando sempre più fragile. Leggevo qualche tempo fa proprio un'analisi sul tema in cui curiosamente diceva: la nostra capacità di conservare la cultura in realtà sta andando deteriorandosi da millenni, perché lo strumento migliore per conservare la cultura era la pietra, le incisioni su pietra, indistruttibili. Solo che ovviamente se stai producendo la mole di contenuti, chiamiamola tutta cultura, che facciamo noi, che produciamo noi, ecco, la pietra non diventa molto adeguata. La pergamena era comunque uno strumento estremamente resistente, poi si passa alla carta, meno resistente ancora, infine si arriva al digitale con tutto quello che abbiamo visto. Quindi, curiosamente, mano a mano che la nostra società diventa tecnologicamente più avanzata, la diffusione del sapere diventa, almeno per quanto riguarda il materiale, se così lo possiamo chiamare, utilizzato, diventa meno resistente. E vabbè, quindi insomma il digitale sta rendendo più fragile la nostra memoria nel senso della nostra capacità di archiviare e conservare il nostro sapere. La cosa interessante è che lo stesso mondo digitale viene accusato di rendere più fragile anche la nostra memoria, nel senso la nostra memoria, la nostra capacità di ricordare le cose. E in particolare queste accuse, che ormai anche loro hanno 30 anni, ma fanno un salto in avanti sia di qualità sia di quantità nel 2007. Perché cosa succede nel 2007? Succede lui. Nel 2007 Steve Jobs dal Moscone Center di San Francisco presenta il primo iPhone. È la prima volta che arriva uno smartphone compiutamente inteso come noi lo intendiamo ancora oggi. Basta anche, è piccolissimo, è tanto comodo, ma vedete ci sono già le app, l'interfaccia tutto sommato è ancora abbastanza simile a quella che utilizziamo tutt'oggi. Arriva Steve Jobs, presenta lo smartphone e realmente è una cosa che non si può dire sempre, ma possiamo dire che dal 2007 cambia tutto. Internet non diventa più soltanto qualcosa che noi abbiamo a disposizione su computer, non è più qualcosa che noi dobbiamo raggiungere e sederci davanti a un computer per poterci collegare, no, diventa qualcosa che noi abbiamo sempre con noi. Noi abbiamo internet sempre, il web sempre a portata di mano. Dal punto di vista della memoria, questi sono tutti i ragionamenti che si fanno, poi io sono poco interessato ad andare a vedere, secondo me già il fatto che se ne parli significa che qualcosa c'è, ma per me non è un atto d'accusa, comunque poi ne parliamo meglio. Nel momento in cui noi utilizziamo gli smartphone ci abituiamo anche a, io per esempio, non faccio più nulla senza che, se qualcosa che devo fare a breve, promemoria che suona 10 minuti prima che io la debba fare. Qualsiasi cosa, anche lunedì prossimo devo andare al cinema a vedere Furiosa con un mio amico, me lo sono segnato sul calendario, altrimenti sicuro me lo dimentico. Per ricordarmi dove sono stato, oggi è venerdì, martedì scorso, guardo le foto oppure scorro la cronologia di Maps, che avrei voluto disabilitare per questioni di privacy, ma è estremamente comoda per potermi dire ma cos'è che stavo facendo martedì sera, cronologia di Maps. Ovviamente ogni informazione che voglio cercare lo faccio così e ricerco le stesse informazioni più e più e più volte, perché faccio sempre più fatica a memorizzare le cose. In poche parole, questo affare qua è diventato veramente una sorta di hard disk esterno del nostro cervello, con tutti i pro e i contro che ne consegue, perché ci sono sia i lati negativi, che sono quelli ovvi, sia i lati positivi, cioè posso liberare, almeno teoricamente, ma qua ci vorrebbe uno neuroscienziato, una parte della mia memoria per occuparmi di cose magari a maggior tasso di creatività o cose di questo tipo. Effettivamente ci sta rovinando la memoria? In verità non lo sappiamo. Questo era un articolo del Guardian recente che si chiede proprio: il vostro smartphone vi sta rovinando la memoria? Un report speciale sulla ascesa dell'amnesia digitale. In questo caso c'erano alcuni neuroscienziati che sostenevano la tesi dello smartphone che ci sta distruggendo la memoria. In altri casi ci sono neuroscienziati che dicono che è impossibile che questo stia avvenendo, perché processi di questo tipo richiedono tempi molto più lunghi. È impossibile che in 15 anni una generazione sola la nostra memoria stia già venendo penalizzata, almeno a livello genetico. Però qui chi c'ha ragione, finché non si mettono d'accordo tra i neuroscienziati, difficilmente potremo dirlo noi. Di sicuro non è sorprendente che qualcosa del genere magari si stia già verificando o potrebbe verificarsi col tempo, magari si sta soltanto iniziando a notare. Perché? Io intanto faccio questo, vai. Un po' anche per darti modo di prendere il fiato, che hai un ritmo notevole, okay, ma anche per diversificare un po'. Prima dicevi, grazie al telefono è come se noi destinassimo una partizione, no, della nostra concentrazione a cose che ci motivano, hai detto esempio attività più creative, no? In modo che tutti invece gli automatismi operativi, cioè tutto ciò che dobbiamo ricordare perché è una hassle, con la H davanti, mi raccomando, tutte le volte che è una fregatura, è chiaro che non lo vogliamo fare e preferiamo che sia una macchina a farlo. E quindi uno sarebbe portato a dire che bello, più tempo, più risorse. Io penso che però abbia anche a che fare con la nostra disponibilità a fare un investimento in qualcosa che ci appaga di più, no? Sì. Cioè, riserviamo il cervello a ciò che poi il cervello ci restituisce sotto forma di endorfine. Cioè, invece, quando invece il telefono ci ricorda qualcosa che comunque in realtà ci stressa, tipo oddio, ho un appuntamento, devo fare questa cosa, non mi va di dovermelo ricordare. Non l'ho detto molto bene. No, però chiaro. Era per dire, siamo anche diversamente motivati, cioè abbiamo visto un'opportunità e stiamo raschiando il barile di questa opportunità. Ma ci sono varie sfaccettature in questo tema. Un'altra cosa che potremmo semplicemente valutare è il fatto che noi abbiamo molti più task, diciamo così, che rende l'idea proprio di piccola mansione da portare a termine ogni giorno. Cioè, prima dell'avvento delle mail non era immaginabile rispondere a una tale quantità di lettere in un giorno solo, a meno che tu non fossi, che ne so, il visconte di qualche strano luogo in Italia. Le notizie, cioè comunque la mole di informazioni e di mansioni che dobbiamo gestire quotidianamente è aumentato esponenzialmente, perché questi strumenti lo rendono possibile, ma lo rendono possibile da una parte al prezzo di un livello di organizzazione che loro a loro volta rendono possibile. È un cortocircuito che hanno creato, che semplicemente serve a noi, non serve tanto, serve a i poteri forti. La casta. Serve alla casta, i poteri, insomma, serve a renderci sempre più produttivi e quindi a far andare avanti il sistema per come sta funzionando fino ad oggi. Infatti, fondamentalmente, lo dicevamo prima, lo smartphone è considerato una vera e propria protesi del nostro corpo. Questa è una protesi del nostro corpo, infatti se tu non ce l'hai, quello sto dicendo delle banalità, se non ce l'hai a portata di mano te ne accorgi istantaneamente perché ne senti subito la mancanza. Ma ci sono anche alcuni dati che non ci dicono nulla di interessante, niente di nuovo, ma è curioso. Allora, questo dice, è del maggio 2023, quindi abbastanza recente, gli statunitensi, ma la situazione è identica anche in Europa, controllano i loro phone, i loro telefoni, un numero allarmante di volte al giorno. Quante volte? Allora, più della metà degli statunitensi ammette di avere dipendenza dal proprio telefono. In media nel 2023 le persone controllano il loro telefono 144 volte al giorno. 144 volte al giorno vuol dire quelle volte che voi prendete il telefono e fate ah, ok, non c'è niente, va bene, va, quello conta come una volta. In media, secondo me, non è tanto irrealistico, perché in una giornata in cui noi siamo svegli circa 16 ore, 17 ore, significa una decina di volte, poco meno di 10 volte all'ora, secondo me, quindi circa una ogni 5 minuti, secondo me è realistico, perché ci sono le volte che lo fai 4 volte in un minuto, ci sono le volte in cui ti soffermi un po' di più, però fondamentalmente questo è il livello che noi abbiamo raggiunto di costante comunicazione con uno strumento tecnologico, è qualcosa che prima era assolutamente impensabile come frequenza, costante reperibilità, avercelo sempre comunque a portata di mano. C'è un altro dato interessante che adesso spero che sia qui. Ah, ecco, appunto, dicevamo ogni 5 minuti le generazioni che hanno la maggior probabilità di controllare le loro notifiche del telefono entro 5 minuti da quando le notifiche sono arrivate. È curioso perché la generazione Z ciò avviene nell'80% dei casi, poi viene la generazione X, che è quella che oggi ha tra i 40 e i 55 anni, 75% dei casi, poi i boomer, quelli che hanno circa tra i 55 e i 70 anni, e poi i millennials, come me, sono un vecchissimo millennials che hanno tra i 25 e i 40 anni, ovviamente appartengo all'altro estremo dello spettro, del 73%. Quindi comunque cosa significa? Che la generazione non conta, e questa è una cosa importante, perché quando si parla di problemi di dipendenza da smartphone, uso eccessivo degli smartphone, eccetera, eccetera, si parla sempre dei i giovani sono dipendenti dai loro smartphone. I giovani sì, sono dipendenti dai loro smartphone come lo sono tutte le altre fasce demografiche, tutte. Cioè mia mamma ha 78 anni e non riesco a staccarla dal suo smartphone. È sempre lì che gioca a burraco, vabbè, insomma, però sempre con lo smartphone in mano sta, e poi ogni volta che arriva un messaggio di WhatsApp c'è la suoneria che trilla per 30 secondi che io divento isterico. Ma c'è sempre su WhatsApp a organizzare partite di burraco. Ah, ecco, che poi non fa. No, fisica. Ah, fisica, vabbè, cioè, questo somiglia più appunto alla generazione Z, cioè persone che usano molto lo smartphone, ma lo usano per abilitare, arricchire la vita nel mondo fisico. Ma questa è una delle qualità. Cioè l'importante è che non sia autoconcludente. Esatto, no, sono assolutamente d'accordo. Ma infatti per me non è un male di per sé l'abuso, diciamo così, che dipendenza poi è un termine troppo forte, e l'abuso dello smartphone rende un po' più l'idea. Non è negativo di per sé, uno, dipende da cosa ci stai facendo sullo smartphone. Non è che usi tantissimo lo smartphone, sì, ma per far cosa? Per scrollare reel di Instagram così pam pam pam compulsivamente come facciamo tutti, o perché mi sto leggendo il post, non so, sono due robe, perché mi sto leggendo Delitto e Castigo sullo smartphone, sono due robe completamente diverse. Ovviamente è un mix dei due fattori, ci sono utilizzatori più di un tipo, utilizzatori più dell'altro tipo. Quello che però è interessante è proprio dal punto di vista veramente antropologico, come questo strumento sta diventando, cioè non è un'accusa nei confronti dello smartphone, è più voler far vedere come questo strumento si sta letteralmente integrando all'interno del nostro corpo. Ed è qualcosa di importante perché sappiamo che i passi successivi stanno andando ulteriormente in questa esatta direzione. I passi successivi che adesso iniziamo a vedere che ci circondano, che appaiono, che scompaiono, che hanno successo o floppano, stanno andando esattamente in questa direzione, cioè quella di unire il corpo umano e la tecnologia e unire il mondo fisico e il mondo digitale. Quindi quale può essere un prossimo passo di questo percorso che con lo smartphone ha fatto un grande salto di qualità, ma adesso stiamo iniziando a vedere che forse siamo giunti al prossimo step. Sarà forse il metaverso? Ve lo ricordate il metaverso? Che fine ha fatto il metaverso? No, non farmi la foto mentre c'è scritto metaverso, che sennò... Che sembra che sono... A me da quando c'è scritto metaverso con la X sopra. Che fine ha fatto il metaverso? Vabbè, ripercorriamo un attimo che cos'era questo benedetto metaverso. Il metaverso era questa idea rilanciata, perché adesso non voglio fare la preistoria del metaverso, che sennò andiamo fuori tema, rilanciata da Mark Zuckerberg nell'ottobre 2021, questa idea per cui la prossima incarnazione di internet sarebbe stata tridimensionale, immersiva in realtà virtuale. Per cui io in questo momento vedrei voi, avrei dovuto vedere voi, ma come avatar, immerso in una classe universitaria digitale, mentre in realtà ero in casa mia con indosso i visori della realtà virtuale e voi tutti eravate a casa vostra con i vostri visori per la realtà virtuale. Questo nel caso delle cose di lavoro come Horizon Workrooms, che era stata una delle due prime piattaforme presentate da Meta, oppure un social network come Horizon Worlds, tuttora esistente, con circa 100-200 mila utenti al mese. Se pensate che Instagram ha 2 miliardi di utenti al mese, capite il livello di successo che ha ottenuto questo finora questo progetto di Zuckerberg. L'idea era di creare un grande social network, ma in cui invece di comunicare con ciascuno delle persone che seguo sui social tramite smartphone o tramite computer, l'avrei fatto navigando questo mondo tridimensionale in realtà virtuale, incontrando le persone che si stavano recando a sentire stand-up comedy in realtà virtuale o stavano cazzeggiando nella piazza virtuale per incontrare altre persone interessate a chiacchierare, tutte cose di questo tipo, una forma di web immersivo, tridimensionale, in realtà virtuale, che ti permette di fare una esperienza più completa e ancora più sensoriale di quella che facciamo oggi tramite il web. Come è andata a finire questa storia? Non benissimo. Questo è un articolo, anche questo, di più di un anno fa, di Futurism, che è una bella rivista, e mi piaceva il titolo, diceva: il metaverso sta completamente cadendo a pezzi. Mickey Mouse e Clippy era quello di Windows, non mi ricordo più se 95 o 98, uno dei primi assistenti, stanno anche loro abbandonando la nave del metaverso, come dire, proprio tutti stanno scappando. Disney si unisce a Microsoft e Snapchat come le ultime grosse compagnie che se la danno a gambe dalle ambizioni del metaverso, perché dopo che Meta aveva fatto quei grandi annunci, tutti erano subito saltati a bordo: Disney, Microsoft, Snapchat, Tinder. Questo è interessante. Tinder aveva annunciato la sua divisione metaverso, in cui andavi, insomma, a baccagliare persone che ti interessavano in realtà virtuale. Non riesco bene a capire quale sia l'utilità finale, però questo era il progetto di Tinder, ma anche lei ha chiuso la divisione. Ho un'ipotesi sull'utilità finale, che così gli uomini avevano l'ansia della prestazione. Beh, vabbè, sei l'ansia. Intanto lì funziona tutto al massimo, ma ci sono però ancora delle limitazioni. Vabbè, insomma, comunque poi Microsoft abbandona la sua squadra per creare il metaverso industriale, eccetera eccetera, qua non facciamo spoiler. Allora, perché non ha funzionato? Abbiamo visto, insomma, bene o male, il più grande progetto di Meta a tutt'oggi ha circa 100-200 mila utilizzatori, sono una cifra veramente microscopica. Tutte le grandi aziende che avevano lanciato i loro progetti per il metaverso se ne sono più o meno tutte andate a gambe. Non vuol dire che la realtà virtuale non funzioni, vuol dire che probabilmente questa non era la giusta visione per la realtà virtuale. Perché? Perché abbiamo detto molto brevemente, anche perché temevo di parlare poco, invece sto parlando troppo. Come abbiamo detto, lo smartphone è il primo passo verso l'integrazione vera e propria del primo passo, un passo importante dell'integrazione del corpo umano e del mondo digitale. È anche uno strumento che, rendendo internet sempre a portata di mano, tascabile, controllabile ovunque, ha fatto veramente iniziare in maniera interessante quel percorso di unione tra mondo fisico e mondo digitale. Il metaverso, se quello che stiamo intraprendendo è un percorso di integrazione, beh, il metaverso è una deviazione da questo percorso, è quasi un deragliamento da questo percorso. Invece di unire fisico e digitale, il metaverso e la realtà virtuale ti dice: di ciao ciao al mondo fisico per qualche tempo e buttati in un mondo invece 100% digitale, 100% immersivo, 100% in realtà virtuale. È strano, perché se noi stiamo andando verso un'integrazione dei due mondi, il metaverso, la realtà virtuale, ti chiede invece di abbandonare un mondo per calarti temporaneamente in un altro mondo che, come dicevamo prima, peraltro ha anche delle limitazioni tecniche. Per esempio, fare shopping in realtà virtuale significa che io devo uscire da un negozio e entrare nell'altro, cioè vado a riprodurre quelle frizioni che esistono nel mondo fisico all'interno di un mondo digitale, che quelle frizioni, fare la fila, entrare in un negozio, uscire dall'altro, confrontarti con un commesso, una delle grandi novità e dei grandi plus del mondo digitale è che queste frizioni le aveva completamente cancellate. Il metaverso va a ricreare queste frizioni senza darti però la totale immersione sensoriale vera e propria che non abbiamo quando stiamo nel mondo fisico. Quindi è un po' come se fosse veramente il peggio dei due mondi. Il che non significa che tutto si fermerà allo smartphone, ma stiamo iniziando a vedere quale potrebbe essere la tecnologia davvero che cambia ancora una volta le carte in tavola, come ha fatto lo smartphone ormai 17 anni fa, ed è non la realtà virtuale, ma la realtà aumentata. Realtà aumentata cosa cambia? Ha detto in due parole: la realtà virtuale, noi indossiamo un visore e ci camminiamo in un mondo esclusivamente digitale, in verità siamo seduti sulla nostra sedia e camminiamo in un mondo popolato da dinosauri, che ne so. La realtà aumentata è completamente diversa, per certi versi quasi opposta. La realtà aumentata permette di sovrapporre degli elementi digitali al mondo fisico che ci circonda, ovvero immaginatevi che adesso io non mi ricordo più dove ho messo le chiavi di casa, ho addosso un visore in realtà aumentata e vedo una freccia che lampeggia e mi indica: guarda che sono lì. Oppure chiedo ad Antonio come da qua si torna alla stazione Termini, lui mi manda un link e io vedo tramite il visore in realtà aumentata le indicazioni proiettate direttamente sulla strada. Integra, sovrappone, oppure incontro una persona, non mi ricordo il suo nome, siccome nessuno dei due fa nessuna attenzione alla privacy, gli viene sopra un cartellino con soprannome e cognome. Guardo qua un palazzo, tanto siamo a Roma, sono tutte cose storiche, e viene fuori che cos'è quel palazzo. Sovrappone uno strato digitale al mondo fisico. Probabilmente, secondo quasi tutti gli addetti ai lavori, è questa la tecnologia più importante del prossimo futuro, perché unisce, ci fa fare un altro passo verso quello che dicevamo prima, l'integrazione tra corpo umano e tecnologia, non più uno smartphone che ho in tasca per connettermi al mondo digitale, lo devo estrarre, guardare, fare quello che devo fare, metto via, ma qualcosa che ho sopra, quindi un altro passo successivo verso l'integrazione, e fa fare un altro step all'integrazione tra mondo fisico e mondo digitale, perché appunto noi adesso ce l'abbiamo portata di mano, ma mondo fisico, mondo digitale, mondo fisico, mondo digitale, con addosso un visore in realtà aumentata questi due mondi si intrecciano. E quindi funzionerà tutta la perfezione, siamo già arrivati a questo meraviglioso mondo? No, perché oggi, se voi volete, è caduto qualcosa. Sì, sì. Grazie. Andrà tutto per il verso giusto, abbiamo già scoperto qual è il next step? No, perché oggi, se volete andare in giro con un visore per la realtà aumentata, questo in particolare è il Magic Leap One, società che infatti è fallita, e dovete andare in giro conciati così. Ora voi immaginatevi di andare in giro per un quartiere periferico di Roma conciati così, guardandovi attorno. Se vi va bene vi prendete degli insulti, se vi va male vi rubano tutto e poi vi menano anche. Non può funzionare. E questo vale anche per il Vision Pro di Apple, che ovviamente è l'ultimo dispositivo, il più ambizioso dispositivo. Tutti sanno che quando Apple entra in un settore significa che qualcosa di grosso, almeno storicamente è stato così, vuol dire che qualcosa di grosso sta succedendo. Apple ha da pochissimo presentato il suo Vision Pro, come sapete costa, come forse sapete, costa $3,500, quindi iPhone levate. Ed è un flop, sta vendendo pochissimo, hanno rivisto le vendite, loro pensavano di vendere 900.000 esemplari nel primo anno, già comunque un numero ridicolo rispetto a quanti iPhone vendettero nel primo anno di lancio sul mercato, mi sembra fossero circa 5 o 7 milioni, e le hanno riviste e le hanno dimezzate, adesso prevedono di venderne circa 400.000. D'altra parte, se voi volete andare in giro col Vision Pro, questo due esemplari di essere umano spotted mentre pranzano indossando dei Vision Pro. Cioè, questa è al momento la realtà della realtà aumentata è questa. cioè andare in giro come dei deficienti. Nessuno vuole andare in giro con già questo. Esatto, un'ottima Caesar salad vista in realtà aumentata che ti mostra quali sono gli ingredienti. Ah, questo è il pollo, questo invece è la salsa. Un grande libro di Richard. Quindi al momento questa è la situazione della realtà aumentata, ovviamente non è pratica minimamente per la quotidianità. Giri che sembrano deficiente si scaricano subito, devi avere la... Vedete che ha il filo attaccato alla batteria perché il computer è incluso dentro, ma devi avere sempre con te una batteria a parte che dura comunque se lo utilizzi sempre un paio d'ore. Non funziona, probabilmente si surriscalda anche, ma magari Apple quel problema l'ha risolto. Dall'altro lato abbiamo questi, questo è il primo modello, adesso è uscito quello nuovo, i famosi Smart Glass che Meta ha fatto in collaborazione con Ray-Ban, quindi con l'italiano Luxottica. L'idea è il contrario. Siccome questi, per avere tutta la realtà aumentata, io devo darti un dispositivo che è inutilizzabile nella quotidianità, a differenza della realtà virtuale, la realtà aumentata è pensata soprattutto per quando siamo in giro, perché altrimenti il mio computer e il mio smartphone, se sono a casa, vanno più che bene. È pensata per un uso soprattutto in mobilità. Non posso andarci in giro con quegli affari lì. Quindi che cosa ha pensato Meta? E non solo, dall'altro estremo dello spettro della realtà aumentata è stata... Ok, non possiamo ancora creare degli occhiali che assomigliano in tutto e per tutto a degli occhiali normali, ma che abbiano al posto delle lenti dei display in realtà aumentata. Questi non ce li hanno, non sono in realtà aumentata, non è ancora tecnologicamente fattibile, o quasi. Quello che possiamo fare è iniziare a integrare degli elementi tecnologici in un paio di occhiali normali, per cui qui abbiamo, ma già lo saprete, la telecamera e videocamera per scattare foto, fare video, nascosti da qualche parte, presumibilmente qui o qui, ci sono gli auricolari, da qualche parte c'è il microfono, insomma iniziano a inserire, c'è lo smart speaker, per cui gli potete dire ehi Alexa o non so come si chiami, e lui ti risponde, lui lei ti risponde, e insomma l'idea è innanzitutto abituiamo le persone ad avere degli occhiali uguali, indistinguibili dagli occhiali normali, dotati di tecnologia. Poi mano a mano che la miniaturizzazione della tecnologia lo consente, andiamo ad integrare sempre più elementi tecnologici in questi occhiali che manterranno sempre la stessa forma di occhiali normali, fino a che non saremo in grado di rendere anche le lenti in realtà aumentata, e a quel punto potremo circolare con la potenzialità della realtà aumentata, ma non più come conciati come quelli che si mangiavano la Caesar salad prima. Questi sono gli... Oddio, non mi ricordo più come si chiamano, Spectacles di Snapchat. Questi io li ho provati, sono passati qualche, mi sembra, durante, poco prima del Covid, poco dopo il Covid, da Milano, li avevo invitato, sono andato a provarli. Come vedete hanno un aspetto molto cyberpunk, sono abbastanza grandi e ingombranti, ma hanno già una forma, comunque, come vedete, molto più simile a quella degli occhiali normali, ed effettivamente sono in realtà aumentata. Non tutta la lente, ma fate conto, una con la porzione centrale di lente ti permette di proiettare degli elementi digitali nel mondo fisico. Noi per esempio eravamo in una stanza e abbiamo fatto fare un gioco in cui sbucava un dinosauro dalla parete, oppure potevi coltivare una pianticella digitale che si piazzava sul tavolo fisico, cose di questo tipo. Ovviamente prototipi, ovviamente cose sperimentali di scarsa utilità, ma che fanno capire che comunque questa è la direzione in cui si sta andando. Questo è un esempio di come potrebbe essere stare in città. Sarà che città? Sarà proprio Roma? Ah, ok. No, non so, a meno che non sia, non lo so, il Campidoglio. È proprio Roma. Questa è come gireremo per Roma con la realtà aumentata. Voi state guardando e vedete la vostra destinazione a 249 metri, questa è la strada che devi seguire, guarda qua c'è un hotel, lì c'è un negozio di shopping, lì c'è una caffetteria, lì c'è un monumento archeologico, no, c'è una banca forse, chi lo sa, insomma un teatro, perfetto. Questa è un po' l'idea di come noi potremo circolare quando avremo a disposizione la realtà aumentata. Questo è un video di YouTube vecchio, ma si chiama Hyper Reality, estremamente affascinante, fatto da un designer giapponese molto bravo, vediamo se riesco ad aprirlo, e anche questo ci aiuta. Questo ovviamente è fatto a livello grottesco e caricaturale, però vedete lei, la persona mi sembra sia una lei, sta scendendo dal bus, le frecce le indicano dove andare, la pubblicità è digitalizzata, per favore dammi un voto, li vedete con le stelline, poi scende, e ci sono le frecce che ti indicano dove devi andare, saltano, viene fuori un sovraschermo i punti di interesse che può visitare, adesso dice ripulite l'area che adesso è il semaforo verde per le auto, quindi via via via, e quindi le auto partono e iniziano ad andare, con insomma lui passa, c'è sopra, loro passano, c'è sopra dei diamantini che non so bene cosa significano, poi va al supermercato e dei bonus. Ovviamente questa è una visione critica e grottesca ed esagerata di quello che sarà un mondo in realtà aumentata, ma comunque più o meno rende l'idea. Tipo come quando ti prendi i funghetti ad Amsterdam. Guarda, più o meno sì. Soprattutto questa volpe qua, sì, o questo cagnetto qua, è abbastanza, ho capito spesso. Perché non andare ancora più in là? Allora, abbiamo detto che questo qui è quello della realtà aumentata e dei visori, è il presente, il futuro al quale stiamo lavorando nel presente. Ci sono già oggi dei dispositivi che effettivamente lo fanno, ma sono da una parte con tutte le funzionalità ma enormi, dall'altra parte come dei veri occhiali ma con poche funzionalità. L'idea ovviamente è che le due cose vadano a convergere e finalmente poi dipende se uno lo reputa auspicabile o meno, e arrivare a dare effettivamente vita a questo mondo in realtà aumentata. Più avanti in là ci sono già dei dispositivi che sono stati brevettati, per esempio da Samsung, si stanno iniziando a progettare, a pensare, a studiare, siamo solo veramente a livello sperimentale, le lenti a contatto in realtà aumentata. Sono soprattutto due le società che ci stanno lavorando, la prima è Mojo Vision, startup francese, che vedete questo è del 2022, perché infatti è già da un po' che ci sta lavorando, lenti a contatto smart, puoi controllare un display micro LED con una flick, con uno sbatto, tipo io direi sbattito di ciglia, non lo so. Comunque sì, l'idea è questa, delle lenti a contatto in realtà aumentata che con funzionalità molto elementari ti permettono, muovendo le ciglia, muovendo gli occhi, di controllare alcuni elementi. L'altra società, questo è più recente, ottobre 2023, è Expansio, startup della cosiddetta deep tech, cioè della tecnologia quella che va veramente negli ambiti rivoluzionari, e niente, vabbè, ha raccolto 40 milioni di dollari, non sono neanche così tanti, per focalizzarsi sulle lenti a contatto smart. Questo solo per dire che ci sono delle startup che effettivamente oggi, in questo momento, stanno già guardando oltre e vedendo se è possibile, perché poi il tasso di fallimento di startup di questo tipo sarà prossimo al 100%, vedere se effettivamente è possibile già spostare lo sguardo ancora più in là. Ora, se io vi dico lenti a contatto smart in realtà aumentata, vi viene in mente qualcosa? Vi viene in mente una serie TV? A me il mal di mare. A te viene il mal di mare? Black Mirror, comunque c'era il Black. Però c'è, cioè, diciamo, una cosa proprio costruttiva, non è esatto. Io sto parlando di tutto il mal di mare, ma nel senso che anche... Con tutti i tuoi. Sì, certo. No, però poi delle cose che tu non gestisci, fondamentalmente come quando tu sei, no? Cioè tu non ti stai muovendo, perché il corpo sta che non ti muovi, ma c'è la barca che ti fa così, è un po' la stessa cosa. Io sono tanto sensibile a certe lenti di occhiali, e quindi mi chiedo, ma quelli che fanno sta roba qua, cioè hanno presente che probabilmente non tutti potranno mai sostenere. Guarda, già i visori in realtà virtuale hanno creato storicamente tantissimi problemi di nausea. Una delle ragioni per cui i primissimi visori di realtà virtuale non sono andati da nessuna parte era che tutti quelli che li sperimentavano dopo 15 minuti massimo venivano da vomitare. Per cui sì, è sicuramente un limite che c'è, ma oltre al fatto del mal di mare, cioè tu veramente sei sottoposto comunque veramente a una quantità di stimoli sensoriali esorbitante, cioè già per me spostarmi da Termini per venire qui passando dalla Fontana di Trevi, troppo, dovrei tornare a Milano. Figurati se ho addosso una cosa in realtà aumentata. Per cui sì, ci sono tantissimi, ma questo purtroppo è un altro tema molto interessante, cioè quanto il nostro cervello è in grado di recepire, elaborare e convivere con una società, una tecnologia che ci sta sommergendo di stimoli sensoriali, e non solo i sensoriali, anche intellettuali, concettuali, cerebrali, sempre maggiore. Sì, dicevamo Black Mirror, poi arriviamo all'ultimo capitolo. Però di cosa parlava? Quella puntata di Black Mirror era The Entire History of You, mi sembra, ed è fondamentalmente il racconto di una società che indossa, metto quello di prima che questo ci distrae, anzi metto questo, è il racconto di una società in cui questa tecnologia è già realtà, le persone la indossano normalmente nella loro quotidianità e la usano fondamentalmente per riprendere e documentare tutto quello che avviene nella loro quotidianità. Perché magari mi sono perso un dettaglio e andando a riscoprire quel dettaglio un domani potrei risolvere perché mi hanno, non lo so, rapito il figlio o la figlia. Quindi è una società che diventa ossessionata dal riprendere tutto quello che gli avviene e poi andare a ricontrollare quello che gli è avvenuto appena prima. Come sempre avviene in Black Mirror, non ci sta dicendo nulla che noi non sappiamo già. Quello che ha fatto storicamente Black Mirror è stato lanciare il sasso 200 metri più avanti finché non cadeva giù nel precipizio, perché questa è già la nostra di società. Già la nostra è una società ossessionata nel riprendere tutto, come tutti facciamo ogni volta che andiamo a un concerto, io per primo, a riguardare subito dopo quello che abbiamo appena fatto. Noi facciamo una cosa e dopo un minuto stiamo riguardando quello che abbiamo fatto un minuto prima. È una cosa, se ci pensate, che è stranissima, l'ho appena vissuto, perché sento già il bisogno di riguardarlo, non lo so. In generale vogliamo archiviare tutto. Non riusciamo più a lasciare andare le cose, ok? Okay, sono passato davanti alla fontana di oggi ho resistito, ma perché sono passato davanti 10 volte, sono passato davanti alla fontana di Trevi, non c'è bisogno che faccia una storia su Instagram, resisti, stai calmo, è pieno di turisti maledetti e andiamo via il prima possibile. È fatico, però è difficile, è quasi, per noi è quasi più naturale, sto passando davanti alla fontana di Trevi, riprendo, vado, tanto ormai è completamente, non è più come i tempi prima, soprattutto dell'avvento delle storie, che era una cosa meno integrata, sempre parlando di fusione tra digitale e fisico. Prima era fermi tutti, faccio un post su Facebook, ok, finito, riparto. Adesso è proprio molto più integrato nei nostri stessi movimenti, passo, continuo, storia, non ti fermi più, non ci pensi più, lo fai proprio in totale spontaneità. Questa è già oggi la nostra società, una società che non riesce a fare a meno di archiviare, mostrare, conservare, riprendere. Ecco, dove può portare però questa tendenza, che appunto è di tutta la società, non è solo dei giovani. Io ogni volta che sento dire i giovani non riesco, ogni volta mi viene l'orticaria. Cosa succede? Tutto questo se la uniamo, questa tendenza, a un'altra cruciale, e finalmente arriviamo all'intelligenza artificiale, tecnologia della nostra epoca. ChatGPT, non sto manco a spiegarvi che cosa sia, perché tanto lo sapete benissimo, però giusto un accenno a, nel caso non lo sappiate altrettanto bene, come funziona ChatGPT in maniera super semplice. ChatGPT è uno strumento prettamente statistico, è stato elaborato su centinaia di milioni di testi scritti, tra cui l'intera Wikipedia in lingua inglese, e a furia di macinare attraverso i meccanismi base degli algoritmi di deep learning, che quindi scovano correlazioni statistiche magari invisibili all'occhio umano presenti in questi dataset colossali con dentro milioni o miliardi di esemplari, documenti, informazioni, dati, riesce a prevedere quale parola ha la maggiore probabilità statistica di essere coerente anche dal punto di vista del contesto con la parola che l'ha preceduta. È la ragione per cui se voi date in pasto a un ChatGPT solo ed esclusivamente le poesie di Shakespeare, si esprimerà come Shakespeare, perché quello ha imparato. O se usate Midjourney, quelli di creazione di immagini, gli date in pasto solo quadri di Picasso, disegnerà come Picasso, perché solo quello può essere in grado di fare. Se tu gli dai un dataset molto più diversificato, impara a fare tantissime cose, ma di base quello che fa è prevedere che se io sto dicendo esco a fare una passeggiata con il cane perché, ha molto più senso che la frase si concluda statisticamente con perché gli scappa la pipì invece con perché mi sono innamorato, che non avrebbe, potrebbe avere, a meno che non mi sia innamorato del cane. Quindi una predizione esclusivamente su base statistica di quale parola può essere coerente con quella che l'ha preceduta, senza che ci sia alcuna conoscenza effettiva di quello che sta dicendo o delle domande a cui sta rispondendo. Però sappiamo che con ChatGPT si dialoga, mi sa che devo accelerare un po', un pochino, con ChatGPT si dialoga in maniera il linguaggio naturale. Noi gli facciamo una domanda, lui ci risponde, se gli facciamo domande anche magari ciao come stai, questo già avveniva con Alexa, ma ovviamente adesso siamo su un altro livello di sofisticazione, ChatGPT ci risponde non sto bene, tu eccetera eccetera. Ecco, per queste ragioni, per questa capacità di relazionarsi con uno strumento di intelligenza artificiale in maniera tra virgolette umana, già oggi molte persone utilizzano ChatGPT come strumento di compagnia. Allora, la società occidentale in generale è piagata da molto tempo da un problema che è quello della solitudine. È sempre più diffuso per ragioni che non vi sto a spiegare, meno famiglia, trasferimenti, lavoro, difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. Più il Covid ovviamente da questo punto di vista non ha aiutato, fatto sta che sappiamo che c'è una quota di persone non trascurabile che utilizza ChatGPT anche come strumento della compagnia. Non so con chi parlare, parlo con ChatGPT. In alcuni casi, e ci sono anche esempi documentati, molte persone chiedono consigli psicologici, terapeutici a ChatGPT. ChatGPT, non sto bene, secondo te cosa devo fare? Cose di questo tipo. I programmatori adesso hanno bloccato, però ovviamente non funziona alla perfezione, ma hanno bloccato la possibilità di utilizzare ChatGPT a questi scopi, ma questa è una realtà con cui dobbiamo fare i conti. E chi ha fatto i conti economici è per esempio la società che nel 2017 ha dato vita a Replica. Replica è un chatbot da compagnia. È un chatbot da compagnia che si è evoluto molto nel passare degli anni, funziona praticamente come ChatGPT, ma è progettato esattamente per essere un vostro compagno o compagna. Potete scegliere anche che rapporto avere. Volete che sia un vostro amico? Volete che sia un vostro partner nel senso romantico del termine? Volete che sia un vostro mentore? Volete essere voi il suo mentore? Potete scegliere e ogni tanto vi fate una chiacchierata come se fosse un amico, ovviamente un amico che non vi smentisce, no beh, vi può smentire, però che è sempre lì pronto a disposizione, insomma, un amico più assimile a un cortigiano o una cortigiana che altro, perché è sempre incredibilmente accomodante e sempre disponibile. Replica nasce esattamente a questo scopo, quindi utilizza gli strumenti di intelligenza artificiale per creare un compagno che vada a sopperire le persone che hanno bisogno, vada a sopperire la necessità di bisogno, la necessità di compagnia di alcune persone. 10 milioni di iscritti paganti, in continua crescita, funziona. È un progetto, trovate sull'App Store anche adesso, è a portata di smartphone per chiunque di voi. Adesso ho aggiunto anche la chiamata vocale, anche infatti si vede lì in fondo a destra, potete quindi telefonare e parlarci, potete personalizzare il look, sta diventando qualcosa con cui... Parlarci di cosa? Di quello che vuoi. Ciao Replica, oggi sono andato a fare un giro per Roma, ho tenuto lezione all'UIUL, ma dai, davvero, com'è andata? No, dai, bene, forse sono in quelle allucinazioni, ma mi sembravano abbastanza interessati. E cosa gli hai parlato? È lunga. Così, quello che vuoi. Che sì, sì, sì. Una cosa, ma guarda che prima già esistevano delle persone fisiche. Sì, ma ancora adesso. Sì, no, esatto, sì, sì. Non è una cosa... Tipo gli amici. Ok, ok, ok, sì, sì, okay, quindi esisteva già. Anziché esserci, diciamo, ChatGPT, era proprio una persona che faceva la stessa cosa. Sì, sì, sì. Eh no, sì, ha senso, però così a livello di scala vai, cioè così tu puoi soddisfare ogni singolo cliente. No, sembra una questione di scala, invece lì era più limitata. Però ovviamente non sto facendo questa cosa perché non c'entra niente con quello di cui abbiamo parlato finora, ma in verità poi vedrete che incredibilmente le cose si ricollegano. Chi altro sta entrando in questo mercato? Meta. Meta, vedete questo del settembre 2023 sul suo sito ufficiale, in questo post che dice stiamo introducendo delle nuove esperienze di intelligenza artificiale in tutta la nostra famiglia di app e dispositivi. Tra queste nuove esperienze c'è questa qua. Stiamo lanciando, vedete riquadrate in rosso, stiamo lanciando 28 altre intelligenze artificiali in modalità beta che hanno interessi unici e delle loro personalità. Alcune sono impersonate, o alcune anzi sono insomma recitate, impersonate come volete, da icone culturali degli influencer, tra cui Snoop Dogg, che è sempre ovunque in qualunque cosa lui c'è, Snoop Dogg, Tom Brady, giocatore di football, Kendall Jenner, quella delle Kardashian se non vado errato, e Naomi Osaka, la giocatrice di tennis. Quindi stanno creando, cosa sta facendo Meta? Sta creando delle sorte di replica che però sono basate sulla personalità di alcune celebrità. A cosa serve questa cosa? Che voi, mentre usate i prodotti Instagram, prodotto ovviamente di Meta, magari seguite il profilo di Tom Brady e potete chiacchierare con Tom Brady o chiacchierare con Naomi Osaka o con Snoop Dogg, e loro rispondono come ti risponderebbe Snoop Dogg o come ti risponderebbe Kendall Jenner, con delle sembianze simili. Probabilmente a breve, adesso non abbiamo aperto il capitolo di fake, ma a breve sicuramente usando anche la loro voce in maniera sempre più verosimile, diciamo, in maniera sempre più verosimile. Quindi l'intelligenza artificiale, che attraverso i mezzi statistici è in grado di prevedere quali sono le parole più adatte a rispondere a determinate nostre richieste, è in grado ovviamente, anche se viene addestrata appositamente, a esprimersi in una maniera simile a come farebbe un personaggio famoso e a usare anche i suoi temi, i suoi argomenti, il suo tono di voce, eccetera, eccetera, può anche riprodurre la sua voce, e questa cosa ovviamente sta andando così. E qua però adesso torniamo al tema della memoria, perché? Ma se possiamo ricreare delle personalità, delle singole persone, perché devono essere per forza vive? Perché non possiamo ricreare anche delle personalità defunte? Tu ridi. Allora, torniamo un attimo appunto al discorso di prima. L'incapacità della nostra società, incentivata in questo dagli strumenti tecnologici, a lasciare andare le cose. Scusate. Ecco, la nostra incapacità, unita alle nuove capacità tecnologiche e a queste potenzialità dell'intelligenza artificiale, ha fatto sì che da qualche tempo sia nato uno dei più ambiziosi progetti, che fondamentalmente riguarda il dare vita ai defunti. Speak Memory, questo è un articolo lunghissimo e bellissimo di Casey Newton, uno dei migliori giornalisti tecnologici che ci sia, che racconta il progetto del 2016 di Eugenia Cuida. Quando ha perso il suo migliore amico, l'ha ricostruito usando l'intelligenza artificiale. Eugenia Cuida, non a caso la persona che poi ha creato Replica, di cui parlavamo prima, nel 2016 perde il suo amico Roman, lei fa la programmatrice, anche lui faceva il programmatore, che cosa dice? Dice, vabbè, adesso io vado a recuperare tutte le mail che ci siamo mandati, tutti i messaggi su WhatsApp che mi ha mandato, tutti i post su Facebook e Instagram che ha pubblicato, tutte le tracce digitali che ha lasciato dentro di sé, tutte, quindi centinaia di migliaia probabilmente, se pensate a quanti possono essere i messaggi su WhatsApp che scambiamo col nostro migliore amico. Do tutto questo in pasto all'intelligenza artificiale e ricreo un clone digitale. Prego Antonio. E se lui non fosse d'accordo? Allora lei dice che ne ha parlato con la mamma prima di farlo. Dice che ne ha parlato con la mamma le ha dato il suo assenso, lei ha costruito questo progetto, ma poi lo abbandona perché ha rilasciato durante un'intervista di aver avuto la sensazione di dialogare con l'ombra di una persona. Non funzionava ancora bene, siamo ancora troppo in anticipo sui tempi. Il progetto di Eugenia Cuida per ridare vita a Roman e ovviamente creare un mercato di questo tipo per altre persone che ne sentissero il bisogno, e anche qui ritorna una puntata di Black Mirror, questo progetto non funziona, ma Eugenia Cuida riutilizza quello che ha imparato per questo progetto per creare Replica, di cui abbiamo già parlato. Nasce comunque con questo progetto il settore della digital afterlife, l'aldilà digitale. Allora, questo è un articolo che ho scritto io, quindi è sicuramente correttissimo. E che cosa volevo dire? Ecco, come nasce il settore della digital afterlife? Fondamentalmente, tra le varie cose che si stanno crescendo, che stanno venendo fuori in questo periodo, è il fatto che gli account di persone decedute su Facebook sta crescendo a velocità esponenziale. Nel 2019 30 milioni di account presenti su Facebook appartenevano a persone decedute. Si stima che entro il 2070 i cosiddetti account zombie potrebbero essere più numerosi di quelli in vita. Che cosa ne facciamo di tutti questi account? Un sondaggio mostrava come il 50% degli utenti vuole che il profilo Facebook venga cancellato dopo la morte, il 25% vuole che venga lasciato così com'è e un altro 25% vuole che venga trasformato in una sorta di memoriale digitale. cosa che si può già fare oggi. Voi potete entrare nell'apposito parte di sezione di Facebook e dire: quando io morirò, questa persona avrà accesso al mio account e lo trasformerà in una sorta di lapide digitale. Questa è la parte base dell'industria dell'aldilà digitale, ovvero nascono società di consulenza che vi aiutano ad affrontare tutti i passi che servono per rendere i vostri profili pubblici dei memoriali, per salvare le vostre mail, se siete un blogger per assicurarvi che il blog non venga cancellato, che finisca nelle mani della persona giusta. Ci sono molte società. Questa però ovviamente è la parte più normale, più banale, diciamo, dell'aldilà digitale. La parte invece più avveniristica è un po' quella di cui stavamo parlando. È un giro d'affari che è valutato già oggi attorno ai 350 milioni di dollari, di cui fanno parte le società che vi aiutano a scegliere chi affidare il loro account, ma soprattutto di cui fanno parte realtà come Hereafter, che invia ricordi interattivi letti con la persona, con la voce della persona defunta, My Wishes, che invia messaggi alle persone care dopo la scomparsa dell'utente. Quindi fondamentalmente io muoio e delle persone che lo vogliono ogni giorno ricevono un mio messaggio fatto con la mia voce, recitato dall'intelligenza artificiale in base a quelle che sono le mie preferenze, il mio carattere. Storyfile, che permette di ricevere risposte registrate in vita dai propri cari defunti, selezionandole automaticamente in base alla domanda posta. Vuol dire che io prima di morire registro 300 risposte e poi, in base alla domanda che i miei cari mi pongono, l'algoritmo seleziona la risposta migliore. Microsoft nel 2017 ha depositato un brevetto di una tecnologia di un chatbot conversazionale che, come dicevamo prima per il caso di Eugenia Cuida e del suo amico Roman, ricostruisce le personalità. L'idea di Microsoft era di addestrare un chatbot usando immagini, dati vocali, post dei social media, messaggi elettronici, informazioni di altro tipo. Il chatbot in questo modo si sarebbe espresso come la persona replicata e avrebbe potuto anche usare la sua voce, oltre a ricrearne le fattezze in formato bidimensionale, tridimensionale o entrambi. Un avatar, un ologramma, chiamatelo come volete, di una persona defunta che si esprime con la voce e che ha le sue fattezze. Vabbè, Microsoft, potete immaginare anche le ragioni, ha deciso di non procedere nello sviluppo di questa tecnologia. Il problema è che la tecnologia inizia ad esserci, persone interessate ci sono, un mercato probabilmente c'è. La possibilità di replicare il comportamento di una persona defunta o viva che sia, quello ovviamente non cambia assolutamente nulla, c'è. La persona defunta però ovviamente è più interessante dal punto di vista economico, perché va a colmare digitalmente un vuoto che si crea. La domanda, andando alla conclusione, è: questa cosa è buona o cattiva? Vabbè, è facile dire che non ci permette di elaborare il lutto, ovviamente, cioè cosa, noi non riusciamo, no? E proprio se torna sempre quel discorso lì, nella nostra società non riusciamo ad andare avanti, non riusciamo a lasciarci alle spalle le cose che sono successe senza doverle per forza conservare, archiviare, rivivere, e ovviamente anche questo fa parte di quel meccanismo. Ci sono anche aspetti molto critici e molto diversi, un po' quello che accennavi tu prima. Tu dicevi: sì, io poi non lo voglio fare. Beh, ma non solo, c'è anche che cosa ci possono rivelare. No, se io... Tra l'altro, scusa, il tema della privacy dei defunti, il motivo per cui le foto di Gaia e Camilla hanno campeggiato sui giornali per 2 settimane è che nessuno tutela la privacy, sì, dei defunti. Sì, sì, sì. Mentre siamo così preoccupati, no, a pubblicare foto di minori, no, foto di persone che non vogliono essere fotografate, eccetera, il tema, diciamo, di rispettare la volontà di chi non ha più un modo eventualmente di alzare una bandiera e dire: guarda, io non voglio, si intreccia molto, sì, con le cose che sì, si sì, fanno. Sì. Prego. Quando sono stata a convegno la cimiteri? Perché lei è una grande fotografa, una riconosciuta autorità mondiale della fotografia dei cimiteri. Ah, viene invitata ai convegni internazionali sul tema, poi passiamo avanti. No, perché sto facendo un dottorato sulla digitalizzazione del patrimonio culturale architettonico, per l'Italia, nello studio della comunicazione del patrimonio culturale. Quello che mi fa sul studio è il cimitero monumentale di Perugia, che si inserisce all'interno del suo filone, che è l'architettura e il turismo cimiteriale, no? Io sono andata a un convegno ad Atene dei cimiteri europei, che intanto sono nuove, è molto che cose sorprendenti che accadono, è molto trasversale, pensare, c'è anche il giornale d'architetto, però c'erano anche, insomma, storici, giuristi, eccetera. E dato che io ho presentato, quindi sono all'inizio di questa ricerca, in cui, cioè, assieme alla professoressa dovremmo sviluppare una sorta di piattaforma in cui c'è questo rilievo del cimitero, che però contiene anche delle informazioni, cioè dei dati, anche sui defunti, perché un'altra fetta del patrimonio culturale è non solo i beni architettonici, ma anche le storie che sono sostanzialmente il contenuto, quello che rimane delle persone dopo la morte, no? E tutto questo discorso per dire che lì c'era un'università di giurisprudenza turca che sollevava proprio questo problema, cioè della privacy dei dati delle persone defunte, che hanno questo drammatizzato, nel senso che in qualche maniera qualcuno dovrebbe dare l'autorizzazione per la decennità, quindi c'è, nel senso, a me sembra una cosa tanto matura. Sì, sì, no, certo. Perché magari, cioè, tutto diventa tutto relativo, non è che uno va a dire ah, il morto non c'aveva un euro nel conto in banca, uno racconterà cose che sono a un nostro. No, però può succedere, cioè, per esempio uno dei problemi che si collega a quello che tu stavi dicendo, era appunto, tanto adesso abbiamo veramente finito, era per esempio alcuni dicevano ma ok, tu stai addestrando questo chatbot che deve ricreare il defunto tramite tutti i messaggi, le mail e le cose che ha mandato. Ok, se queste mail sono conservate delle cose che lui non voleva che tu sapessi? Se poi a un certo punto dici, c'era un esempio che facevano in cui un chatbot parla, un chatbot del papà defunto parla col figlio e gli dice quella volta lì che ero con Camilla. E chi cavolo era Camilla? L'amante. Un tema molto ampio che riguarda anche il fatto, per esempio, del diritto dei coniugi a guardare il cellulare della madre. Sì, sì, perché sì. Magari nell'accordo c'è che non bisogna avere segreti tra padre e moglie, posso anche essere d'accordo, però la persona che ha scritto al coniuge, quando scrive a una sola persona, non a due. No, certo, poi ci comportiamo tutti in maniera diversa a seconda di... Non è un accordo che riguarda solo le due persone, riguarda anche il mondo con cui interagisci. Quindi, insomma, niente, andando a concludere, era appunto siamo partiti da come era la memoria, internet abbia reso più facile la memoria, poi siamo passati a vedere come lo smartphone sta modificando la nostra memoria, come non riusciamo più a far andare via nulla, come la nostra integrazione e questi meccanismi saranno sempre più pervasivi e probabilmente anche ingombranti a livello cognitivo. C'è una domanda di Mattia? Sì, vabbè, tanto ho proprio finito, così poi abbiamo, sì, così poi faccio le memorie. E poi vabbè, ovviamente le possibilità di continuare ad affrontare questo passato fino al punto di arrivare a ridare vita ai morti, ovviamente in una maniera surrogata. Però secondo me la cosa importante è proprio, non so come dire, quello su cui dobbiamo riflettere è, secondo me, come noi stiamo integrando il mondo digitale e il mondo fisico, il corpo umano nella tecnologia, come questo ci sta cambiando a noi, e lo vediamo anche da cose di questo tipo, proprio a livello antropologico. Proprio a livello anche quasi atavico, ci fa ripensare addirittura il nostro rapporto con la morte. Quindi, insomma, sono dei processi che, al di là delle capacità tecnologiche dei dispositivi, sono estremamente importanti ed estremamente anche affascinanti, almeno per quello che mi riguarda, proprio dal punto di vista culturale. E quindi, insomma, secondo me vale veramente la pena di tenere sott'occhio tutti questi processi e cercare sempre un po', come fa proprio Black Mirror, a dire ok, sta succedendo questo, ma dove possiamo andare a parare se proseguiamo su questo percorso? E poi vedere un po' come le vari elementi che sembrano a prima vista così disparati, oggi lo ammetto, abbiamo parlato di cose diversissime, vanno poi in verità a incastrarsi, a tenersi l'una con l'altra. Va bene, grazie Andrea.